Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Alle 8 e 20 minuti, eccoci qui, caro Oscar. E la notizia è che non c'è ancora l'allenatore dell'Inter. Mi pare capire che per te quella è una delle priorità a cui guardare. Va bene, come al solito, la Croce Rossa, lasciamola stare. Ah, va bene, va bene, va bene. Battute umanitarie, d'accordo. Pietà, pietà. Pietà, pietà. Allora, sarà oggi San Silvia, auguri, che si chiama così, da mamma del grande pontefice Gregorio Magno, romana, patrizia, convertita e santa, che volete di più. Tra gli altri santi di oggi, dai nomi un po' particolari, Sant'Amico, patrono dei malati di ernia, Sant'Eufrosino, Gaudioso e altri, Papulo IV e così via. Oggi, cosa succede oggi? Beh, nel 1534 Enrico VIII mandava a quel paese il Papa e nasceva la Chiesa Anglicana. Garibaldi sconfitto a Mentana nel 1867. Clinton presidente nel 1992, ecco, storia lunga che si ripete, inaugurante forse, no, per perché secondo la moglie. Me si è dato il verdetto finale al voto americano un po' prima del tempo. Aspettiamo i voti, li contiamo, poi vediamo, perché i media e gli intellettuali politicamente pare che, corretti, pare che bisogna ricontarli, perché Trump ha detto di rivotate quelli che hanno già votato. Quindi, si può, come al solito, no? il politicamente corretto fa sempre gli stessi errori quando si tratta di avvicinarsi a voti in cui c'è un solo candidato che gli piace. Auguri, auguri a chi oggi lo compleanno di Monica Vitti, di Pupi Avati, di Afef. E pensano, lo stesso giorno, oggi, lo stesso anno, che però non dico, nascevano un banchiere, ex giovane banchiere ormai insomma arrivato, Matteo Arpe, ma comunque che fa discutere, Milly D'Abraccio, di cui non dico la professione, e Cristina Parodi, che invece è una collega giornalista. Quindi nello stesso giorno. E come si fa? Intrattenimento di uno dei più grandi interessi degli esseri viventi. Si può dire, è pornostar. Quindi, ho usato una perifrasi, ma volevo dire semplicemente questo. Va bene che oggi si ricorda anche la prima pubblicazione su Famiglia Cristiana di un sedere nudo di donna, pensa. Era, quindi mi invito ad essere esplicito, era il 2005, pensa. Ah, beh, tempi recenti. E scrivono addirittura, pensa, questa è la cosa da ricordare. Ma vabbè. Allora, il numero da ricordare invece è 800 24 00 24. Ma niente sedere di donna. Niente sedere di donna, c'è poi solo... in radio è difficile mostrarle. Sa mai, qui ormai fai i collegamenti con Facebook, qua e là. Io, per fortuna io vigilo, cari ascoltatori, vigilo. Tu sei qui a vigilare, a controllarmi, che io non faccia niente. Tu sei uno di quelli che già hanno preparato il ponte, perché dal 2 al 12 dicembre le scuole italiane sono a Milano con Sant'Ambrogio, come no, non italiane, a Milano con Sant'Ambrogio. Ma che paese è? Hanno chiuse 10 giorni. Dal 2 al 12 dicembre scuole chiuse, per poi richiudere poco dopo per altre settimane. No, che no, paese? Intanto spieghiamo, non tutta Italia. No, a Milano, Milano. A Milano, perché a Milano dal 2, il 3, il 4 è weekend, poi il 4 si vota, il 5, il 5 c'è il voto, quindi le scuole. Poi il 6 c'è il ponte, il 7 è Sant'Ambrogio, quindi festa a Milano, l'8 è l'Immacolata, il 9 è venerdì c'è il ponte. Evviva gli operatori 10, del 11, turismo! 10 giorni! Poi ci lamentiamo. Ma in realtà della è la disperazione dei genitori. Perché i genitori lavorano, e infatti mia moglie mi ha no, detto, secondo me molti genitori con pontificano. Ma no. Beh, quelli che possono, quelli altri, quelli che ovviamente altri quelli che no. Possono, sono d'accordo, perché altri se lo sognano, sì. Ma non possono. Però detto questo, il problema di fondo è che paese è un paese dove si fanno 2 settimane, 12 giorni, no? Sì, prima, le scuole che sono le scuole che sono seggio. Poi c'è un paio di giorni e poi ci sono altre settimane. E poi c'è Natale, ovviamente. Poi c'è Natale, poi va dai, su, cosa ti dico? Comunque, cari ascoltatori, oggi parleremo un po'. Lo faremo alle 8:40, prima avremo un altro ospite. Alle 8:40 parleremo delle truffe agli anziani. Guarda, caro Oscar, che questo è un problema molto grave, molto serio, molto. Stai parlando dei residui tifosi di calcio? No. Sto parlando seriamente. Le truffe agli anziani. Tra l'altro, ora c'è una proposta di legge di alcuni del PD di mettere un aggravante di 5 anni per chiunque commetta una truffa nei confronti di un over 65. Già tu discutevi sulla soglia, sì, over 65, se uno mi dà dell'anziano io mi arrabbio. Tu non hai 65. Ma figurati oggi se dice una donna che è anziana a 65 anni, vabbè, mentre mette la minigonna ancora un limite dovevamo metterlo. Sì, ma 65 anni non è vabbè, facciamo comunque, 75. Io soprattutto non sono d'accordo col credere che si risolve tutto con le aggravanti penali. Questa è la classico rito ponzio pilatismo pilatesco della politica, che ci mette un aggravante penale, un reato ad hoc, capisci? Sì. Poi come si vedi quello, l'aggravante, l'omicidio stradale, ha funzionato però pochi mesi, è un tema serio, perché come fai è un prevenzione tema serio. Perché parli certo, con gli anziani, certo, ma gli anziani molto spesso non hanno più la ragione. Aspetta, non è questione di ragione. Il problema è che gli anziani commettono più facilmente gli stessi errori che commettono tutti gli italiani. Qui c'è un problema di, posso dire brutalmente, per esempio, analfabetismo finanziario di massa. E questo riguarda i giovani come poi gli anziani. Sì. Gli anziani, diciamo, scelgono pensandoci meno, ma è lo stesso errore. Quello che tu dici, la prevenzione, sì, ma si comincia dalla scuola. Dalla scuola. Ecco, e si continua per tutta la vita, perché nel nostro paese, su alcune scelte di fondo, come, dove si mettono i soldi, come si usa il risparmio, cosa compro e cosa no, chi sono gli addetti delle aziende pubbliche e private che mi possono chiedere cose e a che titolo li posso mandare a quel paese, queste cose non è che invecchiando rimbambiti. No, è chiaro, però un problema c'è quando invece ti chiamano a casa, fanno la truffa classica, ti dicono sono quello che deve controllare, lei deve mettere i gioielli lì. Giocano purtroppo anche sul fatto che magari molti anziani perdono un po' la sensibilità, però di fatto se lo sai a 30 anni te lo ricordi a 65, se non l'hai mai saputo a quel punto, siccome sei a casa, ti beccano per quello, questa è la differenza. Comunque ne parleremo, perché avremo il vescovo di Ivrea che ha invitato i carabinieri nella diocesi di Ivrea, nelle chiese, e i carabinieri vanno alla fine della messa a raccontare agli anziani come si fa a reagire. E i preti in questo, secondo me, si stanno rivelando più attenti, non so i politici che però, gli diamo l'aggravante penale, ma anche del tutto il sistema pubblico italiano, perché io, per esempio, se ripeto, l'analfabetismo finanziario che porta le famiglie italiane a riempirsi il paese avanzato più al mondo, in cui hanno le obbligazioni subordinate bancarie in tasca, dipende dal fatto che noi siamo ignoranti in media di queste robe qua. Viva i preti! Comunque, Oscar, prima, allora io ho un'idea, ho sempre pensato che sia un mondo, non so perché se sto invecchiando anch'io e quindi la penso così man mano con l'età, ma che il mondo di 20 anni fa era in tutte le sue sfaccettature meglio, nel senso che ci sono sempre più i mediocri, vanno avanti quelli che non sanno le cose, vanno avanti quelli che non sono capaci, che proprio la società sia peggiorata in tutti gli aspetti, che sia l'Italia dei tengo famiglia, degli impuniti, delle relazioni. Però tengo famiglia, lunga tradizione italiana, non è una tradizione. Ma sempre più dei furbi, dei furbetti, delle relazioni oscure, dei codici violati. Insomma, in una parola, c'è questo libro di Sergio Rizzo che è qui con noi, che salutiamo, La Repubblica dei Brocchi. Buongiorno. Dei Brocchi. Cioè, e qualcuno ha subito equivocato pensando a un personaggio del calcio. No, non è l'allenatore del Milan. Edito da Feltrinelli, esce proprio oggi nelle librerie La Repubblica dei Brocchi. Chi sono i Brocchi? Tutti, un po' tutti metti, Sergio, in questo libro. Sì, anche giornalisti. Anche giornalisti, ma non c'è dubbio. Sì, perché sai, un paese se è ridotto male, non è che è ridotto male soltanto per questo. È ridotto male tutto. Quindi abbiamo una galleria infinita che va dai politici, ovviamente, e ci sono delle cose che ho scoperto in ilaranti, anche semplicemente nei dibattiti parlamentari. Succedono delle cose veramente inimmaginabili. Per esempio? 30-40 anni fa, no? Certe locuzioni, certe battute, certe uscite. Ci sono documenti pubblici che circolano con l'asse H, dove la grammatica è una un'opinione. Ah, quindi proprio parli di sintassi. No, comunque... Ma sì, si parte dalla sintassi per poi arrivare, siccome sentivo che Oscar prima diceva giustamente che tutto parte dalla scuola, e il punto è sempre lì. Allora, se la scuola è stata massacrata, è chiaro che poi non ti puoi aspettare che la classe dirigente che deve uscire dalla scuola sia una classe dirigente preparata. Questo infatti è un libro impietoso nei confronti della classe dirigente pubblica generale. E privata pubblica generale e privata. Anzi, privata è stato fin troppo generoso, Sergio, se posso dire. Secondo me è fin troppo generoso. Però io ti volevo ringraziare per tre cosette che sono in realtà, una non solo un ringraziamento ma poi c'è una domanda. Prima ti ringrazio perché tu, senza saperlo, hai citato una frase della Voce Repubblicana che quando io ho letto il libro mi è venuto un cortocircuito mentale, perché quella frase l'ho scritta io e me lo ricordo come se fosse ieri. Ed è una cosa che mi hai, cioè tu non lo sai, ma mi hai dato un doppio schiaffo in faccia. Perché? Perché ovviamente mi sono rivisto nella parte del giovane entusiasta che veramente scriveva facendo dimettere un proprio ministro che si vergognava. E mi sono rivisto quel giorno e ho detto: pensa come mi illudevo allora, ecco. Primo, e vabbè, ti volevo ringraziare Oscar, di questo. Erano persone per bene. Lo so, però solo che a dirlo adesso uno dice: sei un laudator temporis acti del passato. Invece, io volevo ringraziarti e invitare i lettori a leggerlo, perché i capitoli in cui parli dei dirigenti pubblici, del via vai tra autorità di figure, dei dirigenti pubblici che amano dipingersi come indipendenti dalla politica, ma devono tutto e solo alla politica, e l'intoccabilità di alcuni, molte centinaia di questi, al MEF e così via, secondo me siete in pochi a farlo, ed è una grande chiave del perché l'Italia è peggiorata, perché la politica è peggiorata, ma loro il potere ne hanno di più, non so come la pensi. Ma perché la politica, quella cattiva, quella brutta, si è infiltrata anche nei posti più delicati. E tu non è un caso che abbia citato le autorità indipendenti, che dovevano essere un po', diciamo, la linfa nuova, no? La linfa vitale della pubblica amministrazione. Però perché erano quegli strumenti a difesa del cittadino, ma anche, diciamo, creati per allenare delle figure a misurarsi con la cosa pubblica, no? Figure che venivano dal mondo esterno in qualche modo, professori universitari, tecnici di vario tipo, no? E anche donne, perché non ci dimentichiamo che poi questo è un paese nel quale c'è un deficit enorme, che è quello delle donne, no? Noi non abbiamo praticamente donne nei posti di potere. Non ci sono donne, e le uniche donne che ci sono quelle che, diciamo, sono messe lì per in ostacolo a questo principio assurdo delle quote rosa, oppure sono sempre le stesse, no? Non è un caso che, per esempio, io cito il caso di Letizia Moratti come emblema, se vogliamo, anche un po' avvilente, no? di questo uso delle donne. Cioè, una donna considerata brava, per cui destra e sinistra poi alla fine se la contendono. Addirittura mi pare che D'Alema le offrì un ministero, addirittura due, c'è qualcuno che dice. Quindi, e poi Letizia Moratti sappiamo chi era, no? Era una figura che era stata presa dal tempo del governo Berlusconi a fare presidente della RAI e poi successivamente investita di importanti responsabilità ministeriali dalla destra. Però questo per dire che poi alla fine questo è un paese che non sa neanche scegliere, non sa neanche guardare al proprio interno, no? I mediocri esistono e fanno strada proprio perché il sistema è disegnato per loro, perché se il sistema fosse un sistema efficiente, no, meritocratico. Meritocratico, loro sparirebbero. Tra l'altro, Sergio, nel libro c'è, visto che è anche grande attualità, è a parlare di Repubblica di Brocchi, anche applicata la questione del terremoto. Tu lo analizzi, no? Anche con l'ultimo terremoto, quello di Accumuli, a chiedersi banalmente: ma chi ha autorizzato quella scuola di Amatrice crollata? Cioè, partire dalle domande banali, se vuoi, basiche, che però alle quali nessuno ha una risposta, perché succedono le cose anche le più turpi. Allora, le categorie professionali sono quelle forse che soffrono di più questa situazione, questa peculiarità italiana. Faccio un esempio, ma la soffrono anche perché il sistema è disegnato proprio apposta. Faccio l'esempio della professione forense, no? Che poi però è simile a quella degli architetti, eccetera. Sì. Cioè, se tu hai un sistema giudiziario che si basa sulle procedure, no? Allora l'avvocato bravo non è quello che sa impostare una difesa convincente e nella ringa finale convince i giurati che sei innocente, eh? Come vediamo nei film americani, per capirci, no? L'avvocato bravo è quello che sa trovare la strada più facile, più no, migliore per farti arrivare alla prescrizione, per avere un difetto di notifica in modo che il processo va alle calende greche, per trovare la gabola capace di farti uscire dai guai, no? E sono tutti così poi alla fine. I grandi processi, se andate a vedere, sono tutti viziati da questi meccanismi. Io racconto la storia di come è andata a finire la vicenda della casa, la famosa casa al Colosseo a sua insaputa, no? Sì. Dove lì è proprio un episodio classico di questi, no? Dove tutto finisce nel niente, prima una grandissima esposizione mediatica di questa vicenda, le dimissioni del ministro, poi alla fine tutto finisce in niente, nulla, in zero, tutti prescritti. Perché poi noi abbiamo dei sistemi, dei meccanismi che pochi conoscono, ma che sono veramente assurdi. Per esempio, perché finisce tutto in prescrizione in Italia? Perché noi abbiamo un sistema per cui la prescrizione decorre dal momento in cui avviene il reato, non dal momento in cui si scopre il reato. Per cui se io scopro una truffa 8 anni dopo che è avvenuta, è già prescritto. No, ma anche su questa vicenda del terremoto, sì, non ci sono responsabilità. Il timore è questo, che poi non si scoprirà chi è il responsabile tra progettisti, autorizzazioni, architetti, comuni, burocrazia. Collaudatori. Non ne parliamo pure lì. Ah, collaudatori, sì, appunto, tutti quelli dell'ANAS e così via. Cioè, ecco, io mi sono bruciato le dita più volte con alcune di loro parlandone negli anni, perché ho scoperto che gli editori erano molto sensibili, alcuni di loro, a questi temi. Perché, perdonami se sono esplicito, perché io poi nella vita ho preso molte botte, una meritata, tante altre no. Detto questo, molti ti accusano, insieme al collega Stella, di continuare a intingere il biscotto in questa storia delle caste, e i politici non ne possono più di voi, dicendo che voi avete seminato l'antipolitica. Questo lo sai bene, che è una delle accuse che oramai viene l'ha detto Rotondi settimana scorsa. Allora, domani al terremoto, domani c'è un nuovo consiglio dei ministri con la deroga per le norme per gli appalti. Nel frattempo l'appalto per le casette l'ha appena vinto la Coop, Consorzio Nazionale dei Servizi, per una PA per 1.100 milioni, e ci sono problemi perché Vasco Errani che dovrebbe intervenire e mi pare complicato. Che ti aspetti da domani e che rispondi a chi ti dice che siete voi i seminatori dell'antipolitica? Ma guarda, i seminatori dell'antipolitica sono quelli che hanno fatto la cattiva politica, non siamo certo noi. Cioè, se c'è una disaffezione per la politica, noi siamo semplicemente come i medici che individuano la malattia. Questo abbiamo fatto noi, né più né meno. Siamo stati anche molto garbati nell'individuarla, devo dire, molto più garbati di quanto non abbiamo fatto altri. E quel libro lì, invito tutti quelli che ce l'hanno a rileggere la dedica dice tutto. Quella dedica di quel libro è un inno alla politica, però alla buona politica. Certo. No, perché nei libri di Sergio Rizzo c'è sempre comunque il messaggio non negativo, a dire si può cambiare, si può migliorare, si può. Ci sono anche delle... Poi si deve. Ecco, io mi aspetto innanzitutto che le cose si sappiano in tempo, da domani, no? Ecco. Cioè, che quando ci dicono la trasparenza, però la facciano poi davvero, no? Non ci prendono per il naso, come alcune amministrazioni, arrivo a dire anche del nuovo che avanza, stanno facendo, Leggere perché il capitolo dedicato a Roma nel libro, del libro nuovo. No, e poi c'è anche questo. No, è chiaro. Nel concludere, ti dobbiamo salutare. Ricordiamo, visto che risponde a una domanda di un ascoltatore, ci sono anche i giornalisti. Sì, non risparmia anche i giornalisti. L'ha detto anche subito e lo scrive nel libro, che voglio ricordare, La Repubblica dei Brocchi, edito da Feltrinelli. Sergio Rizzo racconta anche dei giornalisti. Se è peggiorato tutto, non capisco perché non debbano peggiorare anche gli esponenti della nostra categoria. E allora, Sergio Rizzo, ti ringraziamo. Noi dobbiamo andare in pubblicità, poi parleremo di truffe agli anziani, avremo il vescovo di Ivrea, e che dire, niente, state con noi. State con noi perché oggi c'è da imparare dai preti. 24 mattino, attenti a noi due. 8:42 minuti, eccoci qui, ci sono gli anziani e ci sono le truffe, purtroppo in Italia è così. Però succede, la truffa che oggi ho letto in prima pagina sul Fatto Quotidiano è clamorosa. Che truffa hai letto? Ah, beh, mi è simpatico di questo sedicente nobile Franco Molosso von Rosenfranz Veneto, che si è inventato un finto anfiteatro nel veronese, nel suo terreno. Sì. E il ministero c'era cascato, eccetera. Solo dopo, è tardi, la sovrintendenza ha detto: si è inventato tutto. Guarda, si è inventato tutto. Il pirla della perla archeologica. Vedi, l'Italia è un paese di inventive, pur Totò. Di partorire truffe, Totò. Capisci? Totò. Però questo Franco Molosso von Rosenfranz, già dal solo nome, è una promessa, per così dire, che si era inventato un anfiteatro archeologico, capisci? Addirittura, capisci? Ma dove? Dove? L'ha mostrato a qualcuno? No, sì, aveva mostrato dei segni sul proprio terreno e così via, eccetera, eccetera. E il ministro, solo molto dopo... Diceva di essere un von Rosenfranz da parte di madre. Beh, ma è ovvio. Chi sono poi von Rosenfranz? Ma chi cavolo sono? Sono imparentati col conte Mascetti, non so se hai presente il conte. Vabbè, ci chiama Paolo da Milano. Buongiorno Paolo, che ci vuole dire? Sì, buongiorno Giannino, buongiorno Milan. Io intervenivo ancora per il discorso fatto insieme al giornalista Sergio Rizzo, sì, riguardante il suo libro, diciamo, la mediocrità che sì, adesso impera, diciamo, è impera. Bravissimo. Cosa ci vuole dire? Volevo dire che credo che siamo finiti in una specie di cul-de-sac, nel senso che sia dal basso che dall'alto, le nuove generazioni, io ho 50 anni, lavoro con diverse tipologie di persone intorno a me, non hanno un riferimento diverso da questo, cioè diciamo, come diceva Sergio Rizzo, abbiamo creato un sistema di mediocrità e io lo vedo tutti i giorni, vedo ragazzi che hanno come, tra virgolette, vedono come stimolo il andare avanti senza impegnarsi, senza bisogno di sapere le cose, e ci riescono lo stesso. Vedono certo, persone che vanno avanti nonostante. E credo che sia una parte dall'alto il sistema che ci vuole così. Cioè io vedo dei capi che si circondano di persone mediocre perché così vanno avanti loro. E anche dal basso. Mia mamma, io ho 50 anni, mia mamma alla terza elementare, quando ero piccolo, mi faceva il culo, scusate, per studiare, per leggere, per... Vabbè, Paolo invece dice adesso non è più così, non vedo più così. Li vedo incastrati sia dal lato che dal basso in un problema. D'accordo, va bene, la ringraziamo Paolo per questa sua testimonianza. Allora, noi dobbiamo però raccontare, a proposito di truffe agli anziani, tu Oscar dici non ti piace questa aggravante che c'è di reato? No, non è che non mi piace, è un classico del fresco condizionato della politica che si lava le mani del problema, quindi dice, aggraviamo le pene, ma dai, aggraviamo le pene, non serve affrontare questioni che invece hanno un fondamento nella revisione di come funzionano le cose pubbliche nel nostro paese. Serve invece quello che stanno facendo a Ivrea. Altro che cosa stanno facendo a Ivrea? Ne vogliamo parlare con il vescovo di Ivrea, Monsignore Edoardo Cerrato, che salutiamo e ringraziamo per essere qui. Monsignore, buongiorno. Grazie. Buongiorno. Sono allora molto lieto di salutare loro e anche tutti coloro che ascoltano. Allora, che vi siete inventati, diciamo così, a Ivrea? Allora, io devo essere molto sincero. Sì. Personalmente non ho inventato nulla, perché è una proposta che mi è stata fatta e bisogna dare merito a chi me l'ha fatta. Cioè? Quest'estate il capitano dei Carabinieri, sì, parlando di varie cose, mi ha detto di questo progetto. E io sono rimasto entusiasta subito di questo, perché trattandosi di un aiuto, di una vicinanza, di un servizio a una parte grande della popolazione, quali sono gli anziani, ho detto, detto è sì, una cosa a cui aderisco pienamente. Cioè, posso dire, Monsignore, primo titolo di merito che gli riconosco, che lei dice esattamente le cose come stanno, a differenza di molti che nella vita pubblica italiana non lo farebbero, perché un protocollo dell'arma esteso anche in altre parti d'Italia, per esempio, si pratica anche nelle chiese di Reggio Emilia, d'accordo con il vescovo di Reggio Emilia e con i parroci. Sì. Però tecnicamente cosa succede? Che dei carabinieri vanno durante la domenica. Tecnicamente a messa. È avvenuto questo. Sì. Abbiamo scelto come giornata per questo intervento dei carabinieri nelle chiese, non durante la messa, come qualcuno ha scritto: i carabinieri salgono sul pulpito, l'omelia dei carabinieri, ma al termine della messa, giustamente. Sì. Abbiamo scelto la domenica in cui qui in diocesi si è celebrata la giornata diocesana della Caritas. E fra l'altro una ventina, forse anche più, di associazioni di volontariato, molte delle quali laiche, devo dire, hanno chiesto di venire in cattedrale per celebrare il giubileo e per festeggiare insieme alla Caritas questa giornata. Io ho detto al capitano dei carabinieri: questa è un'ottima occasione. Cioè, ma cosa dicono? Danno proprio dei consigli pratici agli anziani? Danno dei consigli molto pratici, distribuiscono anche un Deplian. Dopo aver presentato il Deplian, il contenuto del Deplian, lo distribuiscono anche alla porta della chiesa. In cattedrale è stato niente meno che il capitano dei carabinieri di Ivrea a fare questo suo intervento. In molte altre chiese sono stati dei carabinieri, c'è stato il comandante della stazione qua di Ivrea. E ho notato veramente nelle persone anziane, ma non solo nelle anziane, attenzione a questo, una grande attenzione, e sempre, ovunque io sono stato presente, sempre si è concluso con un grande applauso da parte mia. Io devo dire che trovo questa iniziativa, al di là del fatto che viene dall'arma dei carabinieri, d'accordo, loro lo fanno in termini professionali, però l'entusiasmo, la convinzione con cui pezzi di chiesa italiana capiscono che questo è un problema fondamentale, è una lezione per l'istituzione della Repubblica, perché nelle scuole, nelle università queste cose non si fanno, altrimenti non capiterebbe che noi siamo il popolo tra i paesi avanzati esposto con più milioni di risparmiatori a truffe, anche quando sono le banche a proporle vendendo titoli molto rischiosi senza dirglielo. Allora io voglio veramente, il mio è un plauso da appartenente a una famiglia di tradizione cattolica, perché questa è la maniera per fare veramente un servizio alla gente. Se pensi che ai risparmiatori nelle banche non si dice che per i loro soldi, quando gli propongono investimenti molto rischiosi, non gli si dice che devono andare da un consulente indipendente dalla banca che lo vende. È una cosa elementare, non significa essere contro le banche, significa spiegare alla gente che devono essere consapevoli dei propri diritti, dei soldi che hanno sudato con il loro lavoro. E a me questa cosa che avvenga nelle chiese, nel dire a tutti: badate che c'è chi ha titolo per venire a casa vostra a chiedervi delle cose, chi non ha titolo, e dovete stare attenti. Ecco, io quando vedrò la Consob fare come i vescovi, quello che sta facendo i vescovi, cioè dirà: avete bisogno del consulente indipendente, altrimenti è un peccato. Tante voglio dire, il confessore che dicesse: quante volte, fratello, ti hanno fregato, non ripeterlo più, perché è un peccato. Monsignor Cerrato, ma perché è un problema, è un problema concreto anche quello degli anziani, anche a Ivrea, nella sua diocesi, truffati. Sì, certo, ovunque. Mi pare di aver letto da statistiche del Censis che il 25+% della popolazione italiana è fatta di ultra 65 anni. Si dice convenzionalmente che dai 65 anni in poi si è entrati nella terza età, quindi è una fascia molto grande della popolazione, oltre che una fascia molto, molto cara, molto cara. La Chiesa ha sempre avuto molto cari gli anziani, proprio perché sono una categoria che un tempo era considerata la fonte della sapienza che veniva trasmessa. Oggi sappiamo che oggi è considerata solo la fonte dei redditi per i giovani che non ce l'hanno e dipendono da loro più che altro, come ci dicono i dati della Banca d'Italia, o purtroppo anche fonte per i truffatori. Ma è proprio per questo, perché loro hanno accumulato, rispetto ai giovani che non ne hanno più, rispetto alla generazione dei nostri padri, molto più patrimonio rispetto ai giovani che non ne hanno. Comunque, Monsignor Cerrato, noi la ringraziamo. Edoardo Cerrato, io che ringrazio voi per questa conversazione, sono molto lieto, e ripeto, io ho aderito profondamente di cuore e di testa, anche, certo, se si vuole, a questa iniziativa, perché l'ho considerata veramente una cosa molto bella e molto utile. La ringraziamo, ovviamente iniziativa dei carabinieri, voi, ricordiamo, perché ringraziamo anche l'arma dei carabinieri, la chiesa, che giustamente raccoglie, no? Sulle assemblee di fedeli, e lì fa un servizio civile. Però vedi, Oscar ha detto: non hanno fatto l'omelia, no? Perché no, la gente ha scritto, giusto, non so che c'entra il rito liturgico, colto, però alla fine è l'occasione per un'assemblea. Ripeto, quando la Consob girerà nelle scuole e nelle università a fare la stessa cosa, a dire: avete bisogno, da piccoli dovete capire che c'è bisogno di un consulente indipendente da chi vede, sarà l'equivalente, altrimenti la Chiesa batte la Consob. Quindi la mia proposta è: Chiesa Massimo 1. Scolari, il presidente della Scosin, consulente indipendente, vescovo, lo voglio vescovo. Siccome la Consob non lo dice, perché è connivente con i soggetti regolati, ecco perché poi arrivano le fregature, cari clienti bancari. Sono un po' brutale al sole queste cose, è meglio non dirle, io le dico perché la penso così. Ecco. Allora, ci chiama Francesco da Roma, buongiorno. Buongiorno, Senta, io volevo fare, diciamo, innanzitutto condividere il telefono a proposito dell'affermazione fatta relativamente al fatto che la classe diciamo, i dirigenti ministeriali, comunque i dirigenti pubblici italiani, sono sensibilmente calati di livello. Questo deriva, secondo me, da due aspetti fondamentali. Il primo è il fatto che la politica, cioè la cattiva politica, che sceglie i dirigenti di prima e seconda fascia presso i ministeri, che sono quelli che poi danno l'indirizzo a tutta l'organizzazione ministeriale e che governano l'intero apparato. Ma questo è frutto di una legge scellerata. Il post Bassanini, insomma. Esattamente, che è quella relativa alla scelta da parte della classe politica dei dirigenti, a prescindere, i quali peraltro poi neanche se ne hanno più. Perché poi, se dovessero eventualmente essere, tra virgolette, trombati o sostituiti, ci sta un accordo che noi vediamo tra le varie parti politiche, una sorta di consociativismo che va avanti più dei tempi della Prima Repubblica, nei quali il dirigente, tra virgolette, trombato da chi è che subentra al dicastero, viene sistematicamente piazzato in altre strutture. Però, di tipo politico. Io dico una cosa, Francesco, questa è una parte di ragione sicuramente. Attenzione, secondo me, a non fare il rischio di dire che è solo la politica, esatto, la fonte di tutti i male. Non è solo la politica. Cioè, nel libro di Sergio Rizzo, lo è, per quello che lei ci ha spiegato, ma nel libro di Sergio Rizzo non si risparmia nessuna categoria, ragazzi, anche quelle private. Perché anche molti dei 350 dirigenti apicali sulla Palazzo Chigi, il doppio al MEF, che hanno una imprenditura carriera che troverete ricostruita per decenni, hanno cambiato più volte il padrone politico grazie a cui hanno fatto carriera. Quindi vuol dire che anche loro esprimono una cultura, ecco, riprovevole. Ma poi voglio dire, riguarda tutte le categorie, visto che non risparmia neanche la nostra, i giornalisti, in questo la politica non c'entra niente nelle nomine. Domenico, se vuoi fare il direttore, devi dire che le banche hanno sempre ragione, bisogna usare i soldi di Stato, perché è una questione di solidità sistemica, e si diventa direttore pensando queste cose in Italia. Fai il bravo, Oscar. No, io dico quello che penso, e su questo mi sono beccato un licenziamento disciplinare e ho vinto in tribunale, caro Alessandro. Quindi, Domenico da Milano, deve essere brevissimo, però abbiamo 20 secondi. Domenico, brevissimo, grazie. Complimenti per l'onestà intellettuale della trasmissione. Sì, io volevo riprendere il concetto che Giannino esprimeva. Tutti questi mali sono sostanzialmente correlati al concetto di consapevolezza, che è formazione, e responsabilità, che è attribuzione degli oneri e degli onori, che sono correlati. Tutto discende poi chiaramente la formazione dei politici, la formazione finanziaria, tutte queste cose qua, è tutto collegato. Tutto tra l'altro anche sul concetto di capitale, che dovrebbe essere impiegato nella formazione e creare sostanzialmente una generazione futura che possa sì, guarirci da questo. Però no, sul concetto di capitale si ferma, perché hai dato 20 secondi, siamo già a 40 secondi. E se no, se introduce il concetto Marx di capitale Mao, in chiusura, così, e invece qui si torna a, attenzione, il prossimo annuncio pubblicitario è: cercasi allenatore per l'Inter. Sì, no, vabbè, lasciamoli un po' così nel guano. Sei solidale, va bene. Dai, solidarietà all'Inter. Ciao. Ciao.